Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, 16:33, Luca Tremolada. Lunedì, Barcellona Mobile World Congress 2010. Telefonini in passerella, pacottiglie, giapponesi che presentano nuovi modelli. Noi però oggi, in attesa di capire insomma quali saranno le principali novità dal mondo della telefonia mobile lunedì, ci occupiamo di banda larga mobile. Alessandro Longo, che è in collegamento con noi, buongiorno. Buongiorno Luca. Ha fatto una prova prodotto sulle principali chiavette per l'internet in mobilità, ci racconterà com'è andata, ma prima le news. Dopo poco meno di 3 giorni, Google Buzz conta già decine di milioni di utilizzatori che hanno pubblicato più di 9 milioni fra post e commenti. Circa 200 sono invece i contenuti pubblicati ogni minuto dai telefoni cellulari. Questi i numeri pubblicati sul proprio blog dal colosso di Mountain View. Qualche protesta e molte perplessità in tema di privacy e di funzionalità, ma Google sarebbe già al lavoro per recepire i feedback degli utenti. Si ritorna a parlare dello split di Motorola, due società entro il primo trimestre del 2011. La prima si occuperà di cellulari e decoder televisivi, l'altra si focalizzerà sul settore wireless. Nel frattempo esce Backflip, il nuovo smartphone touch della Motorola, studiato per il social network. La novità? Ha la tastiera, ma il touch è sul retro. La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto un traffico nazionale di software illegali, denunciando 4 fornitori e multando per la prima volta in Italia anche i clienti. L'indagine, chiamata Uncino, è stata avviata nel dicembre 2007 dai militari di Desenzano, Brescia, che hanno calato un amo, infiltrandosi su internet e trovando un intermediario per la divulgazione illegale di opere protette dai diritti d'autore. L'organizzazione utilizzava email crittografate o protette per comunicare e connessioni mobili difficilmente rintracciabili, perché non associate a uno specifico utente. Software open source. Disponibile per il download gratuito la nuova versione della suite per l'ufficio OpenOffice.org 3.2. La promessa? Caricamenti più veloci. Allora, il test di Alessandro Longo sulle chiavette USB, insomma, ha fatto molto discutere, è uscito ieri su Nova. Alessandro? Sì, abbiamo fatto scandalo. Abbiamo fatto scandalo, esatto. Ci piace farlo, continuiamo a farlo, per cui ci sentiamo la scheda di Alessandro Longo sulle chiavette. Che cosa direste al concessionario se l'auto appena comprata va al massimo a 50 all'ora, anche se ne promette 150? E se vi rispondesse: a 150 ci va, basta trovare la discesa giusta? Eppure, questa è la normalità per quanto riguarda le chiavette per navigare in internet mobile, soprattutto in Italia. TIM e Vodafone ora dicono che possono arrivare fino a 14 megabit al secondo, quasi ovunque in Italia, in teoria il doppio rispetto a una DSL normale. Vodafone ha già attivato 21 Mbps in alcune zone e si prepara a passare ai 28 megabit. Già ha una chiavetta che supporta questa velocità. I test però dicono tutt'altro. La velocità è al solito un quinto di quella promessa. E se ci si trova in una cella di rete sfortunata, con molto traffico, si naviga a meno di un megabit. L'abbiamo visto con un test pubblicato sull'ultimo numero di Nova 24 e lo confermano i tanti che hanno fatto analoghi test, per esempio Altro Consumo. La colpa? È di una rete che non riesce a garantire a tutti la banda promessa. Ma che cosa potrebbero fare gli operatori per risolvere? Cosa potrebbero fare gli operatori, si domanda Alessandro Longo. Noi lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori. 824-0024, l'SMS 349-238-6666. Alessandro Longo sa tutto, è un filosofo, perché insomma è laureato in filosofia, però insomma si è applicato alle tecnologie mobili, vero? Molto. Senti, che impressione hai avuto avendo per le mani, cioè quali sono i principali problemi che hai incontrato? Prima di tutto riuscire a ricevere il prodotto in tempo per la prova. Vabbè, ma questo è la logistica, ma è un altro problema, Alessandro. Sì, lo so, è un problema logistico. Comunque anche questo fa parte del gioco. Una volta ricevuto con fatica il prodotto, il primo problema è l'installazione. Tu inserisci la chiavetta nella porta USB e automaticamente, questo è buono, parte la procedura di installazione. se non che dura moltissimo. Noi siamo abituati a installare un programma in quanto un minuto, a meno che non sia Windows, no? Certo. In questo caso devi aspettarne 5 o 10. Io ho provato su un... il vecchio Windows, non il nuovo. Beh sì, certo. Andiamo avanti, andiamo, dai. Sì, dai. Quindi questo è il primo problema. Poi devi lanciare il software una volta che si è installato, e il software non è agilissimo, possiamo dire che è agile come una tartaruga, perché anche perché, cioè, perché sostanzialmente perché deve tenere sotto controllo che si usi il driver giusto, tutto il sistema di pagamento, la tariffazione, però questo insomma è qualche cosa che dovrebbe essere invisibile per l'utente. Sì, allora, per tutti i software eccetto quello di Wind, di questo abbiamo adesso dato conto, quello di Wind è veloce, agile, semplice. Tutti gli altri sono un po' pachidermici. Lo lanci, compare lo splash screen per 10-20 secondi, in certi casi si blocca, poi appare, ti deve trovare la chiavetta, dice non l'ho trovata, la togli, la rimetti, te la trova, lanci la connessione. Non sì, insomma, è un disastro. Ecco, una cosa, però tu giustamente arrivi al di là di insomma problemi sul software, problemi nell'installazione, però insomma il tema vero è quello della velocità. Il tema vero è della velocità che viene scritta sulla scatola e di quella reale, che non è un problema solo italiano, va detto, è un problema europeo, però indica che forse qualche cosa sulla rete mobile non sta funzionando come dovrebbe. Noi abbiamo in collegamento Cristoforo Morandini di Between. Between lo conoscono i nostri ascoltatori, Osservatorio La Banda Larga. Buongiorno. Sì, buongiorno. Che cos'è che non funziona nella rete mobile? Non so se lei sicuramente avrà letto sui giornali questa notizia, che più che una notizia è un annuncio. Google vorrebbe offrire la banda larga a 1 gigabit al secondo. 1 gigabit al secondo è tantissimo, forse è più un annuncio che un dato reale. Sì, credo che stia toccando il vivo del problema. Vi ricordate qualche tempo fa, no, quando Carl Lewis andava in giro per la città di corsa con i piedi gommati, no? E diceva la potenza è nulla senza controllo. Oggi si potrebbe dire che la velocità è nulla senza qualità, perché sulla qualità della banda larga stiamo facendo molta confusione, no? Esatto, 7 mega che sono 14, che poi diventano 28 sul mobile, e loro uno dice questi 28 rispetto ai 20 del fisso, che cosa succede? In realtà stiamo parlando di velocità nominali e non teniamo conto di quelli che sono vincoli che ci sono in rete e di infrastrutture disponibili che oggi non consentono di avere effettivamente queste velocità. Ecco, Alessandro Longo si domandava che cosa possono fare gli operatori. Gli operatori, intanto oggi parliamo di mobile e andrebbe comunque fatto un confronto sempre anche con la rete fissa. Le misure, certo, che abbiamo fatto noi su circa 20.000 utilizzatori di banda larga fissa e mobile dimostrano appunto quello che stava dicendo prima Alessandro, che sulla parte mobile difficilmente arriviamo oltre a 1,5 mega e siamo quindi circa metà di quello che effettivamente è disponibile sulla rete fissa. Ecco, c'è un modo per misurare la velocità reale? Io sto leggendo gli sms, un ascoltatore di Parma ci dice che insomma lui viaggia a 30 kilobyte e insomma sulla scatola c'è scritto 7,2 megabyte, perché insomma siamo di più di un ordine di grandezza inferiore. Sì, allora ci sono diversi strumenti che sono gratuiti. Noi ad esempio usiamo uno strumento che si chiama Exposure, ci sono altri strumenti come Speedtest che ti consentono di misurare con un buon grado di approssimazione la velocità del collegamento sia mobile che di rete fissa. Ecco, ma qual è il motivo per cui insomma non si riesce a viaggiare veloci? Beh, il motivo è molto semplice, ci sono dei colli di bottiglia nella rete, in particolare nel caso del mobile ci sono due grandi colli di bottiglia. Uno sono le frequenze effettivamente disponibili, perché c'è un problema fisico anche nella parte mobile, tu hai delle portanti, queste portanti ti consentono di trasportare una certa quantità di mega e questa quantità di mega è condivisa, quindi se siamo in tanti andiamo a una certa velocità, sono da solo, prendo tutto io, ma tipicamente oramai parliamo di milioni di chiavette, la probabilità di essere da solo all'interno di una cella, come puoi immaginare, è bassissima. A meno che non vivi in un luogo particolare, cioè, però... ma in quel caso è difficile che qualcuno si sia preso la briga di farti la copertura ad hoc per te. Poi c'è il tema della portante, scusa, perché poi dalla BTF tu hai un tubo più grosso che porta in giro tutti i dati, e anche qui oggi il collegamento è prevalentemente un ponte radio che ha una capacità ben definita, tipicamente 34-155 mega, e anche questa è una strozzatura, anche se si sta investendo, ma capisci, ogni intervento su una BTS ha un costo e così via, quindi ma per capire, c'è un tema, cioè è possibile bypassare tutto investendo, oppure le risorse sono limitate, per cui questo è un dato di fatto dello stato attuale della rete? No, perfetto, anche su questo si può fare chiarezza. Questo backhaul, quindi questo collegamento verso le grandi dorsali, se tu investi lo metti a posto, porti la fibra, porti un ponte radio IP di nuova generazione, te la cavi. Fortunatamente all'interno della cella il vincolo sono le frequenze disponibili e quindi il numero di portanti che tu puoi mettere a disposizione. Proviamo a semplificare, un po' più il numero di frequenze disponibili vuol dire che oggi ci sono delle quantità di frequenze che sono messe a disposizione degli operatori, e più di tanto non ce ne sono, quindi se non ne liberiamo altre il vincolo è insormontabile. Lo spazio è quello. Alessandro Longo. Sì, bisogna spiegare agli ascoltatori che la banda disponibile nella cella dipende dalla quantità di frequenze, c'è cioè un rapporto proprio direttamente proporzionale. Quindi, matematico, ecco. Sì, infatti, se gli operatori hanno X di frequenze, possono avere solo X di banda. Potrebbero fare altre celle e quindi suddividere gli utenti per più celle, però a quel punto dovrebbero... è un altro problema, perché dovrebbero costruire un'altra stazione base, chiedere permessi, non è possibile sempre farlo, ci sono dei vincoli, e comunque avendo più stazioni dovrebbero creare più tubi di backhauling, cioè più collegamenti alla rete, quindi aumentare ancora di più gli investimenti. Ecco, quindi se la velocità di navigazione è legata a limiti di carattere fisico e a limiti legati al traffico, al numero di persone insomma che si stanno connettendo, sul tema delle tariffe invece insomma i limiti diciamo non sono legati alla fisica, ma sono più che altro economici e commerciali. Nova Lab 24. Bentornati, 16:47. Quanto costa collegarci con il portatile a internet? Proviamo a capire qualche cosa di più. Abbiamo capito innanzitutto perché non viaggiamo veloci come vorremmo, come sperato, come sono le speranze insomma di viaggiare. Siamo in collegamento con Cristoforo Morandini di Between e di Alessandro Longo, ma prima la scheda. Un po' i consumatori già lo sospettavano da tempo, ma adesso arriva la conferma. L'Italia ha i prezzi tra i più cari d'Europa per navigare su rete mobile. È evidente da un confronto con le tariffe europee, fatto da uno studio di sostariffe.it, il portale di confronti tariffari. Sono due i problemi. Primo, all'estero ci sono vere flat rate, cioè offerte che includono traffico internet senza limiti, con un canone fisso. 10 euro in Austria e Finlandia, 17 euro in Spagna e Germania. Da noi, con 20 euro, ci sono al massimo 300 ore al mese. Secondo problema. Le tariffe più comuni da noi, cioè quelle con un tetto orario, hanno quasi tutte un super scatto ogni 15 minuti. Se quindi navighiamo 20 minuti e poi ci disconnettiamo, ne paghiamo 30. Il garante per la sorveglianza sui prezzi ha già detto che sta premendo sugli operatori per far eliminare questo scatto. Forse però il problema si risolverà in altro modo. Gli operatori cominciano a puntare su tariffe senza limiti di tempo e con un tetto sui dati scambiati. Così eliminano anche un altro problema: i tanti utenti che fanno tanto traffico su reti peer-to-peer, saturando le reti. Allora, quella da proposta da Alessandro Longo sembra una soluzione, ma è proposta da Alessandro Longo? No. No, ecco, iniziano a vedersi queste tariffe. Vodafone ha anticipato un po' la tendenza con una tariffa che ti permette di navigare quanto tempo vuoi, massimo però 500 megabyte al mese. Comunque tutti gli operatori hanno questo problema, è il problema per cui può capitare di trovarsi a navigare molto molto lenti nella propria cella, perché si trovano in quella stessa zona tanti utenti che fanno peer-to-peer, che stanno scaricando tanti dati e quindi sostanzialmente saturano la banda. Anche se chi poi fa peer-to-peer di solito lo fa di sera, se non sbaglio. Questo lo volevo chiedere anche a Cristoforo Morandini, che insomma la rete la controllano e ha una visione, insomma, di ai raggi X di quello che sta succedendo. Morandini? Sì? Sì, chi fa peer-to-peer è molto più scalto di quello che si può pensare, quindi uno che fa peer-to-peer tipicamente usa la rete fissa, quindi esatto. La rete... Anche perché sulla rete mobile è problematico. Sì, sì, assolutamente. Quindi per chi fa peer-to-peer consiglio assolutamente un 20 mega o un collegamento in fibra laddove è disponibile, e con quello si toglie qualche soddisfazione in più. Quanto che traffico si può calcolare il traffico, insomma, che è mosso dal peer-to-peer? Beh, tieni conto che la maggior parte del traffico, in realtà, cioè l'80% del traffico viene fatto dal 20% dei clienti, questo ti dà l'idea della posta in palio. Chi fa peer-to-peer scarica veramente durante tutta la notte e i volumi in gioco sono veramente di tanti giga al mese. Per cui c'è una minoranza, insomma il 20% è una minoranza, però insomma il quadro è, c'è una minoranza che di fatto occupa un sacco di banda. E questo è un bel tema dal punto di vista di chi deve pagare che cosa, come puoi immaginare. Infatti io volevo anche passare da qui al tema delle tariffe, cioè c'è un motivo tecnologico per cui in Italia noi paghiamo tariffe così alte? Lo chiedi a me, Luca? Lo chiedo a Morandini. So che sì, poi... io comincio io, ma anche stando su questo è ben preparato. Ancora una volta è la scarsità di risorse di cui ti dicevo prima. Nel senso, siccome la banda lì in quella cella è limitata, è chiaro che tu non puoi andare oltre un certo limite perché rischi di aumentare il numero di clienti insoddisfatti, quindi effettivamente ti viene da mettere un filtro. Certo. Alessandro? Ma, senti, io concordo. Poco fa ho parlato con Nokia Siemens, che come sai fa le infrastrutture per i principali operatori europei, e loro mi confermano che le reti degli operatori mobili degli altri paesi europei sono un po' più infrastrutturate, hanno più spesso fibra ottica fino alle antenne, mentre in Italia domina il rame o i ponti radio nei collegamenti tra l'antenna e il resto della rete, quindi c'è meno banda da distribuire agli utenti, inevitabilmente costa di più. E da qui tutto il tema degli investimenti, delle reti di nuova generazione, di cercare di mettere qualche soldo in più per rendere più agevole la navigazione, ma anche più stabile l'internet mobile, no? Sì, infatti c'è un bisogno di fare un upgrade, quindi un potenziamento generale della rete italiana, fino alle centrali, fino a casa dell'utente, fino alle stazioni radio base degli operatori mobili. Insomma, negli ultimi mesi il dibattito insomma sulla banda larga, sulla necessità di finanziamenti, poi bisogna discutere chi paga cosa e se deve essere lo Stato, se deve essere i privati, se devono essere addirittura, si diceva, anche gli operatori di internet, cioè i giganti della rete a cambiare o a mettere dei soldi sulla rete. Morandini, lei che idea si è fatto? Questo è un altro bel tema, di chi paga che cosa e di quanto è vero, tra l'altro, poi l'affermazione, no? Il comunicato rilasciato da Google. Tutti sono interessati ad avere più banda, il tema è chi paga questi investimenti. Io credo che debba prevalere una logica privata, ma in alcune parti del territorio i privati non andranno mai per vincoli oggettivi, e quindi il modello sarà inevitabilmente un modello ibrido. Certo. Alessandro, ricordiamo i dati sul digital divide in chiusura? Cioè quante persone in questo momento non hanno accesso a internet in Italia? All'incirca. Quelli che non hanno, quasi tutti hanno accesso a internet, accesso a internet e banda larga, cioè accesso a internet veloce, esatto. E bisogna definire cosa intendiamo per veloce. Sopra i 2 megabit. Sì, sopra i 2 megabit è il 92% circa di utenti, poi questa è una percentuale che tende un po' a variare, ma... possiamo dire quindi che c'è un digital divide al 92. Grazie Alessandro, grazie Cristoforo Morandini. Noi torniamo lunedì alle 16:30 e ci occuperemo anche di Barcellona. Thank you.